Video game. Nuovo appuntamento con il mondo dei videogiochi. Come sempre si parte con la soluzione del gioco che li vede protagonisti, la soluzione della settimana scorsa. Ecco quindi le risposte. Livello 1. Amate e costose. La risposta era care. Livello 2. Contiene polli. La risposta era stia, e mettendo insieme le due parole si ottiene carestia. Il mostro di fine livello vi chiedeva: mostro di fine livello. Quando c'è, manca. La risposta era cibo. E complimenti a Lisa, che si è portata a casa un buono da 300 euro. Veniamo ora al gioco di questa settimana, e come sempre dovrete risolvere i due livelli per sconfiggere il mostro di fine livello e avere la soluzione da inviare a videogiochi@radio24.it. Per il primo che indovina c'è un buono da 300 euro da spendere online o in qualunque punto vendita Unieuro. Attenzione, perché questa settimana la soluzione, la meccanica, diciamo così, dei due livelli è leggermente diversa dal solito. Ecco comunque il primo livello. Livello 1. La sua icona è Moira. Oggi vi parlo di un videogioco molto discusso e ambientato su una città galleggiante chiamata Ark. 40 anni fa iniziammo a costruire Ark. A quel tempo era un esperimento, un sogno. La città autosufficiente del futuro. Ma poi i mari si alzarono. Fummo costretti a spostarci, ma la nostra Ark divenne un rifugio galleggiante per decine di migliaia di persone. Per evitare il caos, Ark fu divisa. E adesso non c'è più tempo. Brink è uno sparatutto in prima persona disponibile per PlayStation 3, Xbox 360 e PC. E lo dico subito, non è un gioco adatto ai principianti. Si tratta infatti di un titolo che richiede dimestichezza col mondo dei giochi di ruolo e quello degli sparatutto, e soprattutto richiede la collaborazione di altri giocatori, sia che si tratti di giocatori umani, sia di giocatori gestiti dal computer. Ark è allo sfascio. Da 20 anni non vediamo più arrivare navi o aerei. I nuovi ospiti vivono in baraccopoli, malattie, sete. C'è chi ha formato una resistenza che promette l'ascesa al potere e la ricerca di superstiti al di fuori di Ark. Per le forze di sicurezza di Ark non sopravvivremo senza ordine. Quindi salverai Ark o l'abbandonerai. La prima cosa da fare quindi è decidere da che parte stare, ma prima di entrare nei dettagli di Brink, ecco la seconda parte del gioco che vi coinvolge e che vi dà la possibilità di portarvi a casa un buono da 300 euro. Livello 2. Talvolta quella stampa fa discutere. Torniamo a parlare di Brink. Come dicevo prima, dovrete scegliere da quale parte stare. Per esempio, potreste decidere di far parte del corpo di sicurezza dell'isola. Uomini, perché Ark sopravviva, deve esserci ordine. Dobbiamo salvare Ark! Oppure decidere di scappare dalla vostra baraccopoli. Fratelli, restando qui moriremo. Per salvare la nostra gente, dobbiamo fuggire da Ark! Una volta presa la vostra decisione, vi verrà chiesto di creare il vostro personaggio e le missioni così avranno inizio. E come vi accennavo, però, avrete sempre bisogno della collaborazione degli altri giocatori per portare avanti la storia, e qui entra in gioco la possibilità di proseguire collegandovi in rete e quindi utilizzando giocatori umani, o lasciare che sia il computer a gestire i vostri alleati, anche se, sinceramente, l'intelligenza artificiale che li gestisce non è sempre intelligente. Brink è completamente parlato in italiano e questo vi aiuterà a seguire meglio ciò che i vostri compagni vi chiedono di fare. Ed è un gioco davvero complesso che ha fatto dividere la critica in due fazioni opposte come quelle del gioco. C'è chi l'ha trovato geniale e innovativo, chi invece l'ha trovato poco interessante. E dal mio punto di vista è un titolo che gli appassionati del multiplayer dovrebbero prendere in considerazione. E ricordate che Ark è un posto pericoloso. Assicurati di muoverti più di quanto spari. resta vicino ai compagni e affronta le sfide per affinare le tue abilità e sbloccare armi sempre più potenti. E prima di passare alla classifica dei giochi più venduti della settimana, ecco la terza parte del nostro gioco, il mostro di fine livello da sconfiggere con la risposta giusta alla domanda che sto per farvi. E chi invierà via mail la risposta corretta per primo si porterà a casa un buono da 300 euro da spendere online o in qualunque punto vendita Unieuro. Mostro di fine livello. Per trovarla ci vuole quella greca. La risposta a videogiochi @radio24.it. E adesso la classifica. Stabile al terzo posto, la voglia di rimettersi in forma con Wii Fit Plus e Balance Board. Secondo posto per il gioco di rally più divertente che ci sia, ne ho parlato la settimana scorsa, Dirt 3. E ancora stabilissimo al primo posto, il poliziesco ambientato a Los Angeles e del quale ho parlato due settimane fa, LA Noire, rispettivamente per Xbox 360 e PlayStation 3. Al prossimo sabato, un saluto da Stefano Gallarini. Game over.